nuovo in diretta, 8 e 35 minuti, l'esteso eterogeneo panorama della rubrica In Scena ci porta anche in città vicinissime a Bologna, ma direi veramente parallele per quanto riguarda i contenuti che vogliamo diffondere. La danza è protagonista, per meglio dire, comunque, visto che il mio entusiasmo a volte mi porta a piccole distrazioni, la curatela di Ammutinamenti e dell'associazione Cantieri Danza, così ho portato una presentazione più attinente a quello che è. Parola d'ordine, controtempo, 26esima edizione, e abbiamo in diretta telefonica Francesca Serena Casadio. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno William, buongiorno. Ben ritrovata anche per questa nuova realtà di incontro con la danza protagonista, già con una anteprima avviata, se non mi sbaglio, che è stato il primo agosto. Il primo settembre. Primo settembre, sì. Scusa, non è che io con la testa sono ancora in vacanza. Eccoci, ma un altro refuso per distrazione, pensa a te. Sì, sì, bene, sì. Bene, bene. Quindi... Comunque sì, domenica primo settembre abbiamo sperimentato anche una collaborazione con il Festival Radici 35, che è un nuovo festival che c'è in città, e abbiamo appunto iniziato con un'anteprima che ha ospitato Parini II, una compagnia di Cesena, ma ufficialmente partiamo oggi, da oggi fino al 14. Sì. Dal 6 al 14 settembre, filo conduttore con parola controtempo, ci puoi dire qualcosa di più per questa scelta, che a proposito di danza è molto particolare? Infatti è particolare anche perché l'abbiamo proprio presa in prestito dalla musica, perché una delle novità principali di quest'anno va al di là della danza, perché abbiamo ufficialmente una sezione musicale quest'anno al festival, e questa novità che abbiamo proprio attivato in collaborazione con l'associazione Norma, che è un'associazione in città che da anni si occupa di scouting e promozione delle giovani compagnie musicali della zona. Abbiamo chiesto loro, insomma, una vera e propria collaborazione per attivare una piccola sezione musicale che ospiterà appunto due compagnie ravennati, gli Asia Noia e i Cacao, e partendo da questo controtempo musicale, diciamo, l'abbiamo poi allargato nella nostra idea veramente di andare innanzitutto contro il tempo limitato del festival, che dura 9 giorni, ma attivando progetti che vanno veramente al di là delle date strette del festival, con laboratori che sono già iniziati a luglio e che sono proseguiti fino appunto adesso, e di cui vedremo gli esiti finali. È un controtempo che vuole andare anche contro tempo sempre di corsa e scandito da impegni, sì, che viviamo tutti, e quindi anche il concedersi veramente un tempo per stare nel presente, per fermarsi, per godere della relazione con gli altri, del proprio corpo, proprio concedersi un momento vissuto nel presente al 100%. Ecco. Di ascolto anche, se vogliamo, e di autoascolto. Di autoascolto, di comunità, di ritrovo anche con gli altri, insomma, c'è un po' tutto questo pensiero, uno scardinare comunque tempo abitudinario in qualche modo. E questo che arrivi anche ai più giovani, che sono molto esposti purtroppo a questa fretta, e quindi dal 12 al 14 settembre all'interno di Ammutinamenti è di scena la vetrina della giovane danza d'autore, che è un altro paragrafo importante, Francesca. Sì, diciamo che abbiamo due weekend lunghi, il secondo appunto ospita la vetrina, che per noi è un momento importantissimo perché è proprio nostra vocazione dare ampio spazio alle giovani proposte della danza contemporanea nazionale. Vedremo 15 autori, alcuni dei quali sono alla loro prima esposizione di fronte a un pubblico, quindi invitiamo veramente tutti a sostenerli molto. Sono 15 creazioni completamente diverse l'una dall'altra, che danno un po' una panoramica di quelle che sono un po' i nuovi filoni, le nuove proposte, le nuove poetiche dei giovani danzatori, dei giovani autori di danza nel panorama nazionale. È una città molto singolare, Ravenna. Scusa, ti ho interrotto, poi procedo. No, no, vai, vai. No, è che è il secondo comune per estensione, secondo solo a Roma. Ha dei luoghi che sono da riscoprire costantemente, nonostante l'apparenza siano di quotidianità, diventano sedi e palcoscenici involontari per un pubblico attento che sa trasformare tutto ciò con senso artistico e sguardo differente. La scelta di questi luoghi, di cui ci parlerà magari nella seconda parte di intervista Francesca, sarà al contrario tempo protagonista, perché a Mutinamenti ha anche un'attenzione particolare per queste realtà. Detto questo, per quanto riguarda la città di Ravenna, avete qualcosa anche in zone più periferiche? Assolutamente sì, in particolare su questo domenica 8 settembre, che l'abbiamo proprio chiamata la giornata delle gite, perché sono previsti appunto due percorsi, di cui uno nella prima periferia, che è una passeggiata di 5 km in collaborazione con Trail Romagna, un'associazione con cui collaboriamo già da qualche anno all'interno del festival, e proprio un trekking che ripercorrerà i vecchi corsi d'acqua che da appunto dalla prima periferia portano al centro città. Durante la passeggiata ci saranno delle, diciamo, incursioni performative di Virgilio Sieni, che è un nome assolutamente di estremo spicco della danza contemporanea italiana, e che appunto farà due interventi durante la passeggiata, un po' a sorpresa per gli spettatori, ecco. Uno dei miei sogni è Bologna, Ravenna, Ferrara, che sono tre città d'acqua. Pensa che bello se fossero collegate anche per via fluviale, in modo sì. Per me sarebbe un sogno che mi ha portato a interromperti per la seconda volta, quindi per te magari è un incubo. No. Rispetto alle zone più periferiche, anche se sì, diciamo, è periferica rispetto al centro della città, ma è assolutamente in città, perché sempre domenica 8 abbiamo anche una piccola gita urbana, quindi una piccola passeggiata molto più breve questa, in tutta quella che è la zona residenziale del quartiere d'Arsena, partendo dal Parco Mani Fiorite, arrivando a quella che ormai è chiamata e conosciuta come la cittadella dei murales, dove è stato fatto appunto un'operazione di recupero anche estetico proprio dei palazzi, con dei murales bellissimi, cioè ci si va comunemente anche a visitare i murales, e faremo una piccola passeggiata performativa nel quartiere, guidati da Rafael Candela, che è un giovane coreografo italo-brasiliano, e poi potremo vedere Mattia Quintavalle e Giacomo Turati, che faranno uno spettacolo invece partendo da linguaggi pop e dalla street dance. E questi artistici appunto guideranno in questa breve passeggiata invece in zona urbana, quindi domenica c'è la scelta sia per la zona più naturale, diciamo, sia per la zona più urbana. Mi raccomando, se per caso ma non è stato elencato, andate dalla parte di Porto Fuori, restate vicini, perché io regolarmente mi perdo quando sono no, Porto Fuori no. Ok, io regolarmente mi perdo in questo paesaggio metafisico, però sì, insomma, magari fatene una gita con attenzione, ma non è all'interno di Ammutinamenti per il 2024. Infatti. Piccolo stacco musicale, puoi restare un pochettino in diretta con noi. Assolutamente, poi volentieri. Torniamo. Ray Cooder per voi, accompagnato da un altro grandissimo musicista che è Ali Farka Touré. A tra poco, a Mutinamenti. Jana kanu mandenye shiri. su corazón. Comunque, se vi capiterà in via Magazzini anteriori, vi sono questi palazzoni, e se per caso zona d'Arsena, anche piena d'Arsena, e avete la possibilità di guardare il panorama della zona dall'alto, veramente sembra di essere in una città della Pennsylvania. È un panorama totalmente diverso, assolutamente affascinante, diversamente normale, un termine che, come ben sapete, amo, è ricco di micro sensazioni, altro termine che vuole sottolineare la particolarità e l'originalità di uno spazio che diventerà palcoscenico con ammutinamenti dal 6, quindi da questa sera, al 14 settembre, per quanto riguarda la curatela di Cantieri, di Associazione Cantieri Danza. Ci sei, Francesca? Sono qui. Ecco, scusa le mie divagazioni che diventano omelie più delle volte, però parliamo allora di alcuni luoghi. Ho citato la Darsena, ci sarà Alma Già? Allora sì, Alma Già sicuramente, perché è un po' la nostra residenza artistica, diciamo, quindi lo abiteremo in vari modi e con varie funzioni, diciamo. I luoghi, come sempre, che attraverseremo sono tantissimi, sia teatrali, in primis il Teatro Rasi, sia non teatrali. E allora vorrei partire probabilmente da uno dei luoghi più insoliti, che vivremo lunedì 9 settembre, che è l'ex Consorzio Agrario, che è una zona un po' inesplorata, sì, proprio della banchina della Darsena, dove, diciamo, la zona più in fondo, dove ci sono veramente solo delle rovine industriali, si può dire. È uno spazio assolutamente selvaggio, già sottoposto a un intervento di recupero temporaneo grazie a un progetto europeo, e lo occuperemo anche noi lunedì 9 dalle ore 18 con due eventi, ed è sicuramente un'occasione per, appunto, entrare in un luogo che normalmente è completamente abbandonato e selvaggio, e viverlo anche, appunto, con degli eventi performativi. Poi torniamo al centro commerciale ESP, collaborazione avviata l'anno scorso, contesto complessissimo da vivere per gli artisti che ci andranno, perché, insomma, chiaramente è un luogo che ha funzioni completamente diverse da quelle del vivere uno spettacolo, ma abbiamo fatto un primo tentativo l'anno scorso e quest'anno, insomma, insistiamo. Poi andremo di nuovo, al Mar, con una presenza importantissima al Museo d'Arte, perché avremo Marisa Maggi Pinto con un progetto di Chiara Frigo. Marisa Maggi Pinto è una danzatrice storica del Wuppertal Dance Theater di Pina Bausch, che porterà un bellissimo lavoro sul tema della memoria. E poi torniamo alla Galleria Sabe, oramai collaborazione avviata da anni anche quella, una bellissima galleria d'arte in centro storico. Piazza Kennedy, una delle piazze del centro città, insomma, navigheremo un po' tra vari spazi di tutti i tipi, come è la nostra vocazione, insomma, ci vuole essere sempre questo sguardo verso, insomma, anche un percorso di luoghi. Velocemente possiamo sottolineare l'inizio di questa sera? Allora, questa sera iniziamo alle 18.30 a Palazzo Rasponi, con un evento di cui siamo molto contenti, che è lo spettacolo di Alessandro Sciarroni, coreografo di fama internazionale, già vincitore del Leone d'Oro per la danza nel 2019, che presenta Save the Last Dance for Me, che è un lavoro basato sulla polca chinata, che è un antico ballo, sì, esatto, bolognese dei primi del Novecento, che in origine veniva danzato solo da uomini, da coppie, sì, di uomini. E Alessandro ha fatto tutta un'operazione di recupero di questa, insomma, di questo ballo tradizionale, e ce lo presenta appunto questa sera alle 18.30, che sarà l'apertura ufficiale, e poi ci sposteremo in Darsena, dove questa sera abbiamo, oltre alla sezione musicale di cui vi ho parlato in apertura, tantissimi altri eventi. Abbiamo anche il primo ospite internazionale, abbiamo tre ospiti internazionali quest'anno, tutti e tre spagnoli, grazie a, diciamo, contatti e collaborazioni con una rete di festival di danza urbana spagnola, con cui insomma tratteniamo rapporti durante l'anno. E... beh, un bel inizio, direi. Ah, sì, assolutamente. Questa sera avremo anche Silvia Calderoni e Elena Caleo. Tra l'altro, Silvia è una performer originaria di Lugo di Romagna, quindi è a casa, e però per, insomma, tutta la sua attività professionale non vive più qui da molto tempo. Siamo molto contenti di riaverla qua, in banchina di Darsena al tramonto, sì, con The Future is Now. Sì. Ascolta, e per avere informazione, visto che non si può citare tutto il programma, no, così, anche allora, perché sono 28 eventi, appunto, e 11 laboratori aperti alla cittadinanza per consultare, si vuole sperimentare, esatto. Ok, quindi si può consultare attraverso la rete, ci puoi dare qualche informazione? Assolutamente, il sito dove trovate tutto il programma è www.cantieridanza.it/festivalammutinamenti. Ci trovate su Facebook, Festival Ammutinamenti, su Instagram, sempre Ammutinamenti Festival. Se volete scriverci, la nostra mail è info@festivalammutinamenti.org per qualsiasi informazione. E io chiedo a Sergio Fanti, che è qui con me, se si vuole esibire con polca chinata per la se vuole fare oggi pomeriggio, esatto, cioè laboratorio. Possiamo dare manifestazione del nostro talento con un balletto in fondo. È aperto a tutti. Quindi non dobbiamo assolutamente avere... Non è richiesta nessunissima preparazione. Sì, allora, non dobbiamo avere inibizione, dobbiamo buttarci. Assolutamente. Far emergere il peggio che in noi, affinché... Siamo molto bravi in questo, sì, tra l'altro siamo anche molto talentuosi. Ma infatti, secondo me, ci dovreste fare un pensiero. Io ti ringrazio tantissimo intanto, Francesca Serena Casadio. Grazie. Per Cantieri Danza, la curatela di Ammutinamenti, fino al 14 settembre 2024 si parte questa sera, controtempo, 26esima edizione. Grazie Francesca, ci vediamo a Ravenna. Grazie a te William, a presto. Ciao. Per Amazon, guadagna oltre 1500 euro al mese investendo in azioni Amazon. Solo per oggi in regalo un bonus di benvenuto, rispondi ok per info. Interessante questo, sì, che Sergio annuisce subito, subito. Rispondiamo subito a tutto ciò. Mamma mia, che vergogna. Toast. posto, grazie a Francesca Serena Casadio per Ammutinamenti, Controtempo, 26esima edizione, curato da Cantieri Danza a Ravenna. E alle 8.55 noi ci congediamo ringraziandovi per l'ascolto. Sergio, tu ovviamente ogni venerdì e non solo sei convocato, lo sai. Benissimo. Tu sei convocato. Io mi presento, tu poi se mi fanno entrare... Se ti presenti, va tranquillo. Ok, gioco, gioco. Sì, convocato. Ok. Intanto auguriamo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori un buonissimo weekend, a breve liberi dentro, dopodiché ci sarà la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, coadiuvato da Andrea Utensili, e noi lunedì riprendiamo la prima colazione in diretta con i magazine, di cui Sergio da remoto ne è un lettore. Sì. E questo mi dà una grande possibilità di appassionatissimo confronto, sì, per i nostri inserti culturali. Grazie Sergio. Ma grazie a te, Willy, e grazie a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltare anche me. Ciao a tutte, ciao a tutti, ciao. Anche a me.